America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi voglio raccontarvi l'estate americana. Siamo arrivati anche noi, una specie di maratona, devo dire, perché è da gennaio che siamo andati avanti senza interruzione. Siamo arrivati, dicevo, all'ultima puntata prima della pausa estiva. E la notizia che voglio darvi è che anche per l'America il mese d'agosto alla fine è il più gettonato per le vacanze, per le summertime holidays, barbecue sulla spiaggia, clam bakes, vongole arrostite, birra, allegria e soprattutto musica. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Dunque è proverbiale che gli americani non facciano troppe vacanze, quello che immaginiamo. In effetti la normalità è appena, pensate, 2 settimane all'anno. Poi si riesce sempre a ricavare qualcosa di più qua e là, e se c'è anzianità professionale le 2 settimane diventano 3 e poi diventano 4, ci sono lunghi weekend. E cosa fanno dunque gli americani d'estate? Beh, intanto grandi viaggi nei parchi naturali. In questo paese ci sono i parchi più grandi, più belli, più friendly, amichevoli del mondo, da Yellowstone a Yosemite Park, al Grand Canyon, zaino sulle spalle, lunghi giri in bicicletta, chitarra a tracolla, storia d'amore con canzoni d'epoca che restano sempre. You're just too good to be true. Dai parchi c'è qualcosa di più sofisticato, il fresco della costa orientale del Maine, ad esempio. Il Maine, chiamato addirittura Vacation Land, un'escursione geografica, quella della costa orientale, che parte da Long Island per arrivare agli Hamptons e poi su attraverso Martha's Vineyard fino a Kennebunkport, per esempio, la residenza del vecchio presidente George Bush, dove la vecchia aristocrazia americana, i WASP, trovavano rifugio dalla calura estiva. Si passa, andando su in quella direzione, anche da Newport. Ricordo che una volta proprio andai a seguire una vacanza estiva del presidente George W. Bush, sto parlando del primo Bush, e a un certo punto finimmo sul suo golf club e, arrivando, devo dire, ero un po' intimidito. Mi aspettavo di trovare una cosa lussuosa, esclusiva, intimidatoria. Invece arrivamo con altri colleghi a uno shack, una specie di capanna molto understated, modesta. Quello era il Club House di Cape Arundel, un club, uno dei più antichi in America, fondato nel 1896, e mi ha colpito perché, insomma, tutto era molto sottotono, discreto, poco vistoso, insomma tutto era molto rilassato. La vacanza americana è una vacanza in relax. Proprio qui a Kennebunkport, di cui vi parlavo, hanno anche passato le vacanze estive qualche anno fa Nicolas Sarkozy, quando era ancora con la moglie Cécile. Beh, è stata la loro ultima vacanza insieme, perché qualcuno di voi lo ricorderà, perché lei rifiutò di andare a cena dai Bush, e questa volta il presidente era invece George Jr., il figlio. E dunque, insomma, la coppia presidenziale francese questa vacanza americana non portò benissimo. Poi, andando più nord, sempre sul Maine, ci sono alcune piccole isole esclusive, alcune di proprietà di famiglia, una ad esempio dei Rockefeller, e anche lì molto rilassati, barchette a vela, sempre in maglietta, shorts, a godersi la natura, l'aria aperta. Terza grande destinazione, un po' come da noi, la montagna. Aspen in Colorado, una specie di cortina americana, dove tra l'altro ci sono dei circoli intellettuali, c'è l'Aspen Institute, ci sono dei concerti, delle tavole rotonde. Poi Sun Valley nello Utah. Ecco, questi due si contendono la palma per primo, secondo posto. A Sun Valley ci andava Ernest Hemingway, subito sotto Jackson Hole in Wyoming. Di nuovo grandissimi spazi. E infine la California. If you're going to San Francisco, be sure to wear California, che ha sempre fatto sognare, destinazione mitica, lontana, sempre l'ultima frontiera, la frontiera più lontana. Beh, in California l'estate c'è sempre, quasi sempre, durante tutto l'anno, dalla Baia di San Francisco a Los Angeles, e questa estate californiana ce la spiegherà la nostra corrispondente da Los Angeles, Daniela Roveda, alla quale però chiediamo prima di tutto delle Hawaii, dove lei è stata, per cercare di capire come passa le vacanze la famiglia presidenziale. Barack Obama, infatti, tutti gli anni va alle Hawaii. Daniela Roveda in linea con noi da Los Angeles. Daniela, tu sei stata alle Hawaii proprio ad esplorare un po', diciamo, i luoghi di Barack Obama. Ecco, raccontaci intanto cosa fa Barack Obama in vacanza. Barack Obama affitta di solito una casa a circa una mezz'oretta da Honolulu, lungo la spiaggia. Sono dei posti bellissimi, perché le montagne verdissime calano a picco sul mare, e ha raccontato lui stesso che quelli erano i luoghi in cui andava a passare le vacanze anche da bambino. Le Hawaii, direi, sono molto interessanti per capire anche la personalità di questo presidente americano. Daniela, appunto, tu sei andata a vedere la scuola dove lui ha studiato, sei andata a vedere i suoi luoghi, diciamo, fuori da quella che è l'atmosfera di vacanza estiva. E dunque, che idea ti sei fatto di questo contesto in cui il presidente è cresciuto? Devo dire che sono rimasta molto colpita, prima di tutto, la composizione del corpo studentesco. È un'atmosfera molto rilassata, una scuola bellissima nel verde, con prati, alberi, edifici vetusti con l'edera, fiori stupendi. E poi è molto interessante vedere come i ragazzi siano perfettamente amalgamati e perfettamente a loro agio, nonostante ci siano probabilmente tutte le razze del mondo rappresentate in quella scuola. Insomma, le Hawaii sono la vera melting pot d'America, in parte perché sono a metà strada tra l'Asia e gli Stati Uniti. Il presidente si diverterà moltissimo. La domanda che voglio farti è: come si divertono gli attori? Tu sei a Los Angeles, a Hollywood, dunque cosa fanno gli attori in vacanza? Ma gli attori hollywoodiani hanno forse un piccolo complesso di inferiorità nei confronti dell'elite culturale della East Coast, quindi molti di loro, i grossi nomi, vanno a passare le vacanze a Long Island oppure a Martha's Vineyard, l'isola dei Kennedy. Molti altri si dirigono verso i Caraibi, l'isola preferita sembra essere St. Barth, molti in Messico, a Cabo San Lucas. E devo dire, molti invece non si spostano neanche da Los Angeles e vanno a passare le vacanze a Malibu, che è a esattamente 30 minuti dal centro di Los Angeles, dove le case sono come nei film hollywoodiani, sulla spiaggia, su palafitte, con le onde che passano sotto la casa e cullano il sonno degli attori. Ecco, perché diciamolo, insomma, in California poi è sempre estate alla fine, quindi non è che ci sia questo grande cambiamento di stagione. Tu parlavi di Long Island invece, nella East Coast, e in particolare immagino che tu ti riferissi agli Hamptons, a East Hampton in particolare, dove Steven Spielberg, il grande regista, ma anche importanti attori oppure cantanti, Paul McCartney per esempio andava spesso a East Hampton, si ritrovano così alla ricerca, come tu dici, forse di qualche cosa di più intellettuale di quello che può riservargli Hollywood. Martha's Vineyard hai menzionato, sì, è un isolotto bellissimo al largo di Boston. Non c'erano soltanto i Kennedy, ma c'è anche per esempio la famiglia Graham. Kay Graham, la leggendaria proprietaria del Washington Post, ha la sua casa lì. Alcuni, devo dirti Daniele, in effetti ci vanno anche da New York. Ormai gli Hamptons sono molto affollati e quindi prendono un aereo, fanno un volo un po' più in là, e appena tre quarti d'ora di volo, e dunque vanno in questo isolotto che devo dire è davvero delizioso, spiagge enormi, deserte, come sono poi del resto le spiagge degli Hamptons. Pensate, ci sono decine di chilometri di spiagge enormi e profonde, dove a parte qualche gruppetto di persone con qualche ombrellone vicino agli ingressi di queste spiagge, ma poi basta camminare 100 metri per essere completamente isolati. E le spiagge di Malibu, Daniela, sono isolate o sono affollatissime? Anche le spiagge californiane sono relativamente isolate, e in particolare quelle dove abitano gli attori sono, diciamo così, private. Ci sono cancelli, palizzate, ogni tipo di impedimento per tenere a bada le folle, anche se la spiaggia teoricamente è un luogo pubblico. E dunque la cosa che a me colpisce sempre è che qui non ci sono gli stabilimenti balneari come ci sono, o meglio ce n'è qualcuno, però sia nella East Coast che in California mi sembra che quelle schiere di sdraio e ombrelloni sono piuttosto rare. No, qui a Los Angeles, sulla spiaggia di Santa Monica, per esempio, non ci sono stabilimenti balneari pubblici, ma ci sono i club privati, che equivalgono a uno stabilimento balneare, ma bisogna pagare una retta annua per diventare soci, e soltanto i soci hanno la possibilità di andare. Quindi l'esclusiva, vacanze in esclusiva. Daniela, grazie. Ciao Mario. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porterà sulla sponda americana e non andrà in vacanza. Ed eccoci alla canzone del giorno. La voglio dedicare a voi, una grande vecchia canzone estiva che ha fatto sognare generazioni di teenagers, Summer Loving, tratta da Grease, interpretata da John Travolta e Olivia Newton-John. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to the summer nights. Bene, da New York è tutto. Mario Platero vi saluta per l'estate e vi dà appuntamento a settembre. Goodbye and get going. America 24.